spettacolo, frate. Del cammino dalla Gigi d'Agostino, questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. E ascoltando del cammino dalla Gigi d'Agostino, passi passi del cammino. Questi passi del cammino sono i Gigi d'Agostino. E ascoltando del cammino dalla Gigi d'Agostino, questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino, tu sei Gigi, tu pulmino. Questi passi del cammino sono i Gigi d'Agostino. Sì, sì. Don't be out, I'm don't be out, I'm don't be out, I'm don't be out, I don't be out, I'm don't be out. I'm don't be up, I'm don't be up, I don't be up, I'm don't be up, I'm don't be up, I'm don't be up, I don't be up, I'm don't be up, I'm don't be up, I'm don't be up, I don't be up, I'm don't be up, I'm don't be up, I'm don't be up, Gigi D'Agostino. Ma chi è? È un dottor pensatore che cura le anime con cassa e amore. C'è qualcosa che può prescrivere, dottore? Sono qui apposta. Cassa e basso volontà. Cassa e basso volontà. Volontà, volontà, volontà, volontà, volontà, volontà, volontà, volontà, volontà, volontà. No, perché? Va bene tutto, però. Don't be up, I'm sulle mani. Gigi D'Agostino, Le Nouvelle Martel. Stare fermo. sogno all'improvviso, è il sorriso sul tuo viso. No, no, no, non stai sognando, è il digitale. Dai, dai. Ecco un suono all'improvviso, è il sorriso sul tuo viso. No, no, no, non stai sognando, è Gigi Doug che sta mixando. Ascoltando, vi aspettiamo venerdì 15 settembre, discoteca Coconut, Capo d'Orlando, Messina. Muovete alla discoteca Flexus a Messina, sabato 16 settembre in via Don Blasco 77 alle ore 22. In console Gigi D'Agostino, poeta, pittore, poeta.

Ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Chiama un po' il vocalist, per favore. Eccomi. Lavora. Il cammino non lo puoi fermare. È il momento di ballare. Ecco. Lo cazzo, l'hai trovato. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. cammino di Gigi D'Agostino. È chiaro, no? Ciao e grazie.